La prevalenza di donne del focolare nelle prime tribù delle steppe dimostra che la vita dei nomadi andava ben oltre il cavalcare, depredare, devastare. È fuori discussione che la cultura della guerra abbia avuto un impatto decisivo sulle popolazioni delle steppe eurasiatiche nel corso dei secoli, dal momento che il susseguirsi di ambiziosi conquistatori provocò periodicamente la distruzione di popolazioni stanziali durante le loro migrazioni tra i confini con la Cina, il Medio Oriente e l'Europa. Intorno al 650 a.C., una tribù nomade in particolare divenne rinomata per la sua ferocia, gli Sciti, che stavano in Ucraina. Erodoto narra anche storie di un'altra tribù nomade delle steppe chiamata Sacamassageti, che viveva più a sud e che fu guidata dalla regina Tomiri nella battaglia contro Ciro il Grande nel 530 a.C., dopo che quest'ultimo aveva provato ad annettere il suo territorio all'impero persiano Achemenide. L'esercito della regina Tomiri riuscì a vincere contro l'enorme esercito di Ciro il Grande, uno dei più grandi condottieri che la storia patriarcale ci tramandi. A quanto scrive Janin, possiamo aggiungere come scuola delle donne che un merito della regina Tomiri fu di riuscire a riunire in un solo esercito diverse tribù Kurgan, come farà 5 secoli dopo la regina Boudicca in Britannia, dove peraltro abbiamo visto essere approdati i Kurgan Sarmati. Boudicca, regina degli Iceni, riuscì a riunire contro l'esercito romano tutti i clan cosiddetti Celti che vivevano in Britannia, proprio come Tomiri aveva fatto contro l'esercito persiano di Ciro il Grande. Tornando a Tomiri, fu una grande guerriera e un'astutissima stratega che per la prima volta creò divisioni militari di sole donne soldato. E ora torniamo alla narrazione di Janine Davis Kimball. Le potenti tribù delle steppe, che forse più di altre avevano affascinato gli storici greci, erano i Sauromati. Vivevano tra il fiume Don e il Mar Caspio e, come gli Sciti e i Sacamassageti, erano dei caucasici longilinei e dalla pelle chiara che parlavano una lingua indo-iraniana. Basandosi sulle leggende e le storie greche udite durante i suoi viaggi nel nord del Mar Nero, Erodoto trasformò le storie della loro origine in un mito. Circa un secolo prima, una tribù di donne guerriere cavalcava nelle steppe della Russia del Sud. I greci le chiamavano Amazzoni e gli Sciti Oiropate, o assassine di uomini. I greci avevano battuto le Amazzoni nella battaglia di Termodonte, sulla costa sud del Mar Nero, ed erano salpati con 3 navi piene di prigioniere. Le indomite donne erano però riuscite ad ammutinarsi prendendo il controllo del vascello e buttando a mare i propri aguzzini. Purtroppo le Amazzoni erano più brave nell'arte della guerra che come marinaie e naufragarono sulla costa settentrionale del Mar Nero, terra dei guerrieri nomadi sciti, con cui si ritrovarono ben presto a combattere. Fu solo alla fine della battaglia, quando gli Sciti esaminarono i cadaveri dei loro nemici, che si accorsero che si trattava di donne. Meravigliandosi del coraggio e della prodezza militare delle loro avversarie e fantasticando sui figli formidabili che tali donne avrebbero potuto dare loro, decisero di fare l'amore, non la guerra, e gli anziani mandarono un gruppo dei loro più promettenti giovani guerrieri a sedurre le Amazzoni. Alla fine i 2 gruppi si unirono in matrimonio, ma le Amazzoni rifiutarono di essere assimilate alla popolazione sciita, dicendo: «Noi non potremmo abitare con le vostre donne, perché le nostre usanze sono ben diverse. Noi tiriamo con l'arco, scagliamo lance, andiamo a cavallo e non abbiamo mai imparato i lavori femminili. Le vostre donne non sanno fare queste cose. Restano sui carri, non vanno a caccia, non si muovono mai». Pressati dalle Amazzoni, gli uomini sciti tornarono a casa, dove reclamarono la loro eredità, poi raggiunsero le donne dopo un cammino di 6 giorni nelle steppe verso nord-est, e lì la loro progenie fu conosciuta col nome di Sauromati per i greci. Erodoto conclude: «E da allora le donne dei Sauromati vivono secondo le antiche abitudini, vanno a caccia a cavallo con o senza gli uomini, vanno in guerra e vestono come i maschi». Per secoli i racconti di Erodoto, insieme a molte altre storie su donne guerriere, fiere e indipendenti, furono considerate leggende e non storia. Gli occidentali civilizzati, come i greci e i romani, erano inclini a considerare le donne creature delicate e sottomesse. Negli anni 50 gli archeologi russi cominciarono a portare alla luce i Kurgan del VI secolo a.C. e scoprirono tombe di donne contenenti armi, armature e finimenti da equitazione. Il 20% delle tombe dei guerrieri sauromati scoperte nella regione del Basso Volga apparteneva a donne, le cui armi preponderanti erano arco e frecce. Le interpretazioni tradizionali avevano messo in ombra le donne di alto rango. Era arrivato il momento di iniziare la caccia al tesoro. Trovammo uno scheletro femminile con tante punte di freccia e un pugnale. Una giovane donna tra i 13 e i 14 anni. L'oggetto verde che avevo notato sul suo petto era l'amuleto appeso intorno al collo con una cordicella di tendine, una punta di freccia di bronzo posta in una piccola sacca di cuoio. L'altro amuleto giaceva ai suoi piedi e indicava la sua potente abilità di guerriera. Era una zanna di cinghiale lunga 15 centimetri. Ugualmente stupefacenti furono un paio di gusci di ostrica già fossilizzati al momento della sepoltura e una pietra rosa traslucida di forma simile che conteneva una pasta bianca secca. Questi manufatti mi portarono successivamente a dedurre che fosse stata anche una giovane sacerdotessa oltre che una guerriera. Le tombe delle sacerdotesse erano state da tempo identificate. I due tipi di manufatti più spesso sepolti con le sacerdotesse erano gli specchi di bronzo e i gusci di ostrica fossilizzati che servivano da contenitori di pregio. Via via che andavo avanti a studiare le tombe, poi, diventava sempre più evidente che le corniole e i minerali colorati, gesso, ocra rosso mattone e giallo senape, cinabro rosso sangue, erano associati alla pittura corporale, che i tatuaggi erano già in uso tra queste popolazioni antiche e che alcuni disegni avevano poteri speciali. Molte delle altre donne guerriere che scoprimmo a Pokrovka erano state seppellite con manufatti simili a quelli della nostra adolescente, nonostante la maggior parte non avesse i gusci di conchiglia che sottolineavano il doppio ruolo di sacerdotessa. Una aveva una spada di ferro lunga quasi un metro. Per le sue dimensioni tale arma avrebbe potuto essere utilizzata solo in combattimenti a cavallo. Tuttavia, le guerriere non avevano perso il loro lato femminile. Le loro tombe contenevano sempre degli oggetti associati alle donne del focolare, come orecchini, perline e fusi. La maggioranza di queste guerriere era morta in adolescenza, il che mi portò a credere che esse iniziassero il loro addestramento molto precocemente e che molte abbandonassero i compiti militari dopo aver avuto figli. Ho osservato mongoli e kazaki sui monti Altai. All'età di 3 anni circa, tutti sono già cavallerizzi provetti. Nella Mongolia occidentale incontrai un gruppo di adolescenti mongoli e mongole che festeggiavano a cavallo il diploma delle scuole superiori. Diverse coppie cavalcavano a due, con le ragazze sedute davanti a controllare i cavalli e i ragazzi attaccati dietro. L'istruzione militare tra gli antichi nomadi avveniva molto probabilmente con maschi e femmine allenati insieme da abili istruttori o istruttrici. Le ragazze che dimostravano abilità eccezionali venivano prescelte come guerriere e candidate a ricevere un addestramento più intensivo, mentre alle altre si apriva la via di donne del focolare e di sacerdotesse con la relativa istruzione. Non ho dubbi che le donne saurosarmate difendessero le proprie mandrie dai predatori, incluse le tribù vicine o straniere che si aggiravano nelle steppe cercando animali da rubare per arricchirsi o giovani donne da rapire, poiché, come nelle tradizioni antiche, le mogli non dovevano appartenere al clan degli uomini per rinforzare la stirpe. Le donne potrebbero aver partecipato alle cacce di animali da preda, come i grandi lupi o i cinghiali selvatici, le cui zanne erano così preziose, oppure la saiga, una razza di antilope. Attualmente ci sono poche tracce di donne guerriere nella cultura dei nomadi delle steppe. I moderni nomadi kazaki e mongoli continuano tuttavia ad addestrare sia i ragazzi che le ragazze per renderli capaci cavallerizze. E alle ragazze mongole viene ancora insegnato a usare arco e frecce insieme ai maschi. Le credenze religiose delle steppe, regno di sacerdotesse e sciamane, hanno lasciato una traccia duratura nelle civiltà del mondo. Erodoto identificò le Amazzoni, insieme con gli Sciti, quali progenitrici dei sauromati. Cosa frustrante per gli estimatori contemporanei delle Amazzoni, non esistono prove materiali per nessuna di queste affermazioni. Non vi sono città perdute con predominanza di manufatti femminili o antichi cimiteri dedicati interamente a donne guerriere. Non esistevano prove scientifiche a stabilire che una tribù di donne guerriere fosse mai vissuta separata dagli uomini e avesse mai intrapreso le battaglie celebrate nell'arte e nella letteratura greca. Le prove dai nostri scavi di Pokrovka sottolineavano che perfino le sauromate, che Erodoto sosteneva fossero le dirette discendenti delle Amazzoni, vivevano in una società in cui uomini e donne coabitavano. Questa carenza di prove concrete ha portato molti storici a sostenere che i racconti delle Amazzoni possano essere stati inventati dai greci per ridimensionare il ruolo delle donne. Uno dei paradossi dell'età d'oro greca è che mentre nasceva la democrazia, i diritti delle donne venivano cancellati sotto l'influenza dei Dori, un popolo patriarcale che era arrivato nella Grecia centro-occidentale tra il 1200 e il 900 a.C. I Dori trasformarono gradualmente la civiltà della grande dea, in cui le antiche sacerdotesse avevano un ruolo guida, in una forma di culto dominata dal maschio e spogliarono le donne della maggior parte dei loro diritti, sia religiosi che civili, di cui avevano goduto nell'era degli eroi dal 1600 fino al 1100 a.C. circa, anche se esistono numerose testimonianze secondo cui le donne non vollero abbandonare i loro ruoli religiosi e continuarono a condurre rituali segreti per secoli. Il risultato nella Grecia classica fu una società in cui le donne erano completamente soggiogate dagli uomini e confinate a una vita che la maggior parte degli osservatori moderni definirebbe noiosa, isolata e avvilente. Ad Atene, sbandierata culla della democrazia, alle donne era accordato lo stato legale dei minori, con dipendenza totale dalla protezione e dal patrocinio del proprio marito o di un parente maschio, per qualunque cosa, dall'ospitalità alla rispettabilità. Pur vivendo in uno dei più dinamici ed eccitanti tempi della storia, l'era del fiorire delle arti e delle scienze, era loro proibito di partecipare alla maggior parte dei privilegi e dei piaceri della loro società. I maschi greci di classe sociale elevata passavano la maggior parte del tempo fuori di casa, esercitandosi nella ginnastica, intrattenendosi con amanti maschi o discutendo di politica o filosofia nei fori pubblici. Le donne di buona famiglia erano per lo più confinate nelle case, a curare i lavori domestici, circondate da bambini, schiavi e parenti di sesso femminile, questo nella Grecia classica. Perfino quando i loro mariti si divertivano in casa, le mogli dovevano rimanere negli appartamenti femminili al secondo piano, a meno che gli ospiti uomini non fossero parenti stretti. Il teatro stava emergendo come magnifica forma d'arte, ma le sole donne del pubblico erano le etere, raffinate e colte cortigiane che accompagnavano i loro facoltosi clienti. Era nata la democrazia, ma le donne erano escluse dalla partecipazione alla politica o alla vita pubblica. In molti casi, la loro educazione si limitava alle arti domestiche e non solo le loro menti, ma anche i loro corpi venivano trascurati perché era loro proibito fare esercizio o mangiare i cibi migliori. Non potevano possedere alcuna proprietà e mentre un marito poteva divorziare dalla moglie semplicemente cacciandola di casa, una donna che chiedeva il divorzio doveva ricorrere a un parente maschio per appellarsi in sua vece al tribunale, un'azione estrema che veniva intrapresa molto di rado. Vendute al miglior offerente o per assicurare un'utile alleanza alle famiglie, le ragazze ateniesi si sposavano verso i 14 anni, quelle a cui era permesso vivere perché non era infrequente lasciar morire di freddo le neonate. I mariti solitamente avevano il doppio o il triplo dei loro anni e questa grande differenza di età rendeva sospette le giovani vedove. Si pensava che rischiassero indecenti tentazioni sessuali e venivano prontamente poste sotto lo stretto controllo di un parente maschio e spinte a risposarsi il più presto possibile, spesso in accordo ai dettami del testamento del marito. Alle vedove più anziane, che venivano considerate meno soggette agli impulsi erotici, veniva accordata un po' più di libertà. Le donne che si sposavano per la prima volta dovevano essere vergini. Se veniva provato che una donna nobile o nata libera avesse commesso fornicazione o adulterio, non era più considerata idonea al matrimonio e il marito o il tutore poteva venderla come schiava. mentre nei loro sposi era apprezzata una ricca esperienza sessuale con prostitute, schiave o altri uomini. La pederastia, infatti, o omoerotismo, veniva considerata la più alta e la più pura forma d'amore, molto al di sopra dell'affetto tra uomo e donna. L'unico momento in cui alle donne ateniesi veniva veramente permesso di esprimersi senza freni era durante le feste religiose. La maggior parte di queste erano riservate alle donne e qui è possibile leggere tracce del loro potere precedente di sacerdotesse. Dedicate a Dioniso, Demetra e Artemide e altre divinità, queste feste mettevano in scena forme di culto e rituali simbolici che si rifacevano all'antica era in cui era stata adorata la grande dea. Era necessario trovare delle valide giustificazioni per rendere le donne ubbidienti e gli uomini convinti del fatto che l'ordine sociale dominato dal maschio fosse giusto e legittimo. E in quell'ambito la leggenda delle Amazzoni potrebbe aver avuto un suo ruolo. Le storie delle Amazzoni mostravano cosa sarebbe successo se le donne avessero fatto l'impensabile liberandosi dall'azione frenante degli uomini. Le donne atletiche e forti che viaggiavano liberamente, rifuggendo la società maschile, divennero delle promiscue e ostinate megere assetate di sangue, sempre schierate con i nemici dei greci. Le Amazzoni erano anche fatalmente imperfette, perché anche se potevano avere qualche momento di gloria, nella loro innaturalità non avrebbero mai potuto trionfare in battaglia contro i prodi maschi greci, come dimostrato da innumerevoli miti costruiti a tavolino. Basandosi su queste storie, anche l'ateniese più aperto finiva col sentirsi giustificato nel tenere sotto stretto controllo sua moglie e le sue figlie, mentre la natura sottomessa delle donne le avrebbe fatte inorridire all'idea di essere associate a queste creature demoniache. I Saurosarmati adoravano una moltitudine di divinità della natura, attribuendo una presenza divina al sole, alla luna, al tuono, al fulmine, alle montagne e ai laghi, alla pioggia e ovviamente al vento. L'adorazione degli dei della natura era solo una parte del complesso sistema di credenze religiose rivelato dai corredi funebri dei Saurosarmati, dei Saka Massageti e degli Sciti. La libertà di movimento dei nomadi li aveva fatti entrare in contatto con diverse teologie, con reciproche influenze tra nomadi e greci, romani, persiani, indiani, traci e altri. Nelle steppe il risultato fu un politeismo in cui si fondevano l'adorazione degli antenati e l'animismo, con forse un po' di zoroastrismo. Su questo sistema di credenze presiedeva il terzo maggiore gruppo di donne trovate sepolte nei Kurgan di Pokrovka, le sacerdotesse. L'animismo è la credenza che tutti i fenomeni naturali e gli oggetti inanimati posseggano un'anima. I capi spirituali degli antichi nomadi erano quasi sempre donne, forse perché al loro sesso erano attribuiti grandi poteri intuitivi che facilitavano la comunione con gli dei. I pochi uomini sepolti con corredi religiosi sembrano essere stati travestiti o eunuchi, e i loro accessori femminili riflettevano sia il tentativo di assumere il potere delle donne, sia la loro predisposizione al femminile. Come per le donne del focolare e le donne guerriere, gran parte della nostra conoscenza del mondo delle sacerdotesse deriva dai loro corredi funebri. Un discreto numero di tombe non depredate, di sacerdotesse e di tombe congelate che avevano preservato materiali organici che di solito vanno persi col tempo, come tessuti, legno, avanzi di cibo, carne e perfino i semi di alcune piante di canapa psicoattiva, ci permisero di gettare luce sul complicato sistema di credenze dei nomadi e di dimostrare ampiamente il potere e la prosperità delle loro guide religiose. Il 7% delle donne sauromate e sarmate che abbiamo dissotterrato a Pokrovka apparteneva alla sorellanza delle sacerdotesse. Le loro tombe si distinguono per una varietà di oggetti attribuibili unicamente al loro ruolo: altari sacrificali di pietra e argilla, gusci di conchiglia fossilizzati, cucchiai di osso intagliati e amuleti impreziositi dallo stile animale. Solitamente un motivo di leopardi delle nevi. Alcune tombe contenevano piccoli pezzi di ocra, cinabro e gesso grezzo, pigmenti sminuzzati per scopi cerimoniali. Visi, braccia e mani decorati non solo con disegni geometrici, ma anche zoomorfi secondo lo stile animale. Diversamente dalle donne del focolare, Gli specchi sepolti con le sacerdotesse venivano lasciati intatti, a significare che tali strumenti sarebbero stati necessari nel mondo successivo. Alcune donne sono state trovate con pochi manufatti rituali, forse uno specchio di bronzo e un singolo guscio di conchiglia, mentre altre esibivano una vasta collezione di oggetti di valore. Questa disparità suggerisce l'esistenza di una gerarchia religiosa che andava dalle modeste sacerdotesse del focolare che eseguivano i rituali dei singoli gruppi familiari, aul o clan, sino alle potenti e facoltose guide spirituali che sedevano insieme ai capi tribù e utilizzavano le loro abilità per fornire una guida e assicurare buona fortuna a intere tribù o confederazioni. Come le donne guerriere, le sacerdotesse iniziavano la loro istruzione dall'infanzia. Le candidate venivano scelte per i loro poteri intuitivi o per una storia familiare di spiritualità, gli stessi criteri richiesti anche oggi alle guide religiose delle steppe. La loro educazione richiedeva anni. A differenza delle donne guerriere, non sembra che le sacerdotesse abbandonassero il loro ruolo una volta in gravidanza. Molte delle sacerdotesse esumate a Pokrovka e in altri siti erano donne di mezza età o anziane al momento della morte. I loro doveri erano di praticare le arti della guarigione e incanalare le voci oracolari degli dèi o delle dee, attizzavano i fuochi sacri del focolare, interpretavano il volere divino utilizzando le ossa delle scapole e degli stinchi delle pecore, cercando segni propizi. Placavano gli dèi con preghiere e sacrifici, offrendo libagioni sui loro altari, pezzi scelti di carne e formaggio, bevande rituali. I miei primi studi sulle primitive società nomadi si basarono sugli impressionanti ritrovamenti compiuti negli anni 40 e 50 dall'archeologo russo Sergei Rudenko. 5 ampi kurgan sui monti Altai della Siberia del Sud, appartenenti a una tribù nomade dell'età del ferro iniziale che risiedeva nella regione di Pasirik, che oggi sappiamo apparteneva alla Confederazione dei Saka. I corpi erano stati collocati in capanne di tronchi dai doppi muri interrate dentro i kurgan e quando Rudenko aprì le tombe trovò gran parte del materiale organico in condizioni particolarmente buone, grazie sia al permafrost siberiano, sia ai buchi procurati dai saccheggiatori di tombe subito dopo la sepoltura, che avevano permesso la penetrazione dell'acqua, il suo veloce congelamento e quindi la conservazione dei contenuti. In un kurgan, una donna di mezza età era stata sepolta in un caftano profilato con pelliccia di scoiattolo e decorato con applicazioni di feltro dal ricco motivo floreale, colori brillanti. Applicazioni in pelle adornavano il suo grembiule di pelo e centinaia di minuscole perline di pirite erano cucite sulle suole dei suoi morbidi stivali di cuoio. Le sue offerte funebri includevano un'elaborata conciatura fatta di pelo di puledro nero, amuleti per scacciare gli spiriti maligni, trecce di capelli e pezzi di unghie infilati in sacchetti di cuoio, e una manciata di gusci e conchiglie associati fin dai tempi più antichi agli organi riproduttivi femminili e alla fertilità. Ma era l'assortimento di specchi che indicava il suo rango di sacerdotessa. Un altro manufatto proveniente da una cripta sepolcrale era un unico arazzo 4 metri per 7 con 6 pannelli identici fatti di feltro multicolore. Ogni pannello raffigurava una donna seduta che sembrava dare udienza a un dignitario a cavallo. La donna era raffigurata più grande dell'uomo, cosa che indicava il suo rango più alto. Indossava un vestito ricco di decorazioni e un grande copricapo di forma quadrata. Una mano era alzata alla bocca, come se stesse parlando, mentre l'altra stringeva un albero della vita stilizzato. Il suo unico gioiello era uno spesso triplo torque di metallo prezioso che veniva indossato dalle persone di rango elevato, proprio come i Celti. Anche il suo postulante era una persona di rango, dal momento che cavalcava un bel destriero e il suo caftano decorato era arricchito da un'ampia cappa. Era venuto in pace perché la sua faretra era priva di frecce. Il maestoso copricapo della donna e il fantastico albero della vita che teneva in mano con i lunghi rami che pendono dallo schienale del suo trono sembravano mostrare inequivocabilmente che si trattava di una sacerdotessa. I pantaloni stretti, gli stivali e il caftano del cavaliere, molto simili a quelli indossati dalle mummie trovate nelle tombe congelate, suggerivano che fosse invece un capo tribù Saka di rango importante. Mentre il suo sguardo speranzoso e rispettoso indicava che si stava recando dalla sacerdotessa per chiederle consiglio. Questa sacerdotessa, particolarmente facoltosa di Coklatch, possedeva anche una corona d'oro squisitamente lavorata e incastonata di ametiste, granati, turchesi e coralli. Il copricapo distintivo era una parte importante dell'abbigliamento di ogni sacerdotessa. Non sembra plausibile che tale ricchezza rifletta semplicemente la moda del tempo. La dimensione e la forma degli ornamenti potrebbe essere stata dettata dal culto della donna che li possedeva, ma più probabilmente esse rivelano la sua posizione all'interno della tribù. In Anatolia le sacerdotesse e le dee raffigurate in sculture e stele indossavano copricapi alti e quadrati, uno stile che potrebbe essere stato assimilato dagli sciiti e raffigurato nelle loro placche d'oro. Una sacerdotessa del V secolo a.C., proveniente dal cimitero Subashi nella Cina occidentale, indossava un cappello bordato alto e a punta. È difficile ritenere che sia una semplice coincidenza il fatto che lo stesso tipo di copricapo sia divenuto secoli dopo il marchio delle streghe. Nel giugno del 1995, l'archeologa russa Natalia Poloshmak, effettuando degli scavi in un tumulo sepolcrale sul plateau Ukhok, nella Siberia del Sud, ha portato alla luce una sacerdotessa Saka del V secolo a.C., parzialmente mummificata, che aveva circa 25 anni al momento della sepoltura. Come Scuola delle Donne ne abbiamo parlato in un apposito docuvideo con Anastasia, figlia di Vera. Riprendiamo la lettura. Ancora una volta il permafrost aveva preservato molti materiali organici nella camera sepolcrale, incluso un impressionante cappello conico alto 1 metro che occupava un buon terzo del tronco di abete, cavo utilizzato come sarcofago della sacerdotessa. Questo imponente copricapo era fatto di feltro modellato e teso su una cornice di legno ed era decorato con immagini di 8 felini selvatici, probabilmente leopardi delle nevi del Tien Shan, e di uccelli che facevano capolino dai rami di un albero, il tutto intagliato nel legno e ricoperto di foglia d'oro. Questo tipo di iconografia, che è divenuta nota come stile animale, è tipica dell'arte delle steppe, coerentemente con la loro devozione verso la natura. Gli antichi nomadi celebravano la vita animale attraverso gli oggetti e le forme più disparate, dai sarcofagi ai tatuaggi. Alcune immagini zoomorfe possono essere state meramente decorative, ma molte, come i cervi e i leopardi delle nevi, erano simboli di grande potere per le sacerdotesse, alle quali forse servivano da aiutanti e protettori. Molti erano creature che gli abitanti delle steppe incontravano regolarmente, quali aquile, cervi, cinghiali, capre di montagna, leopardi delle nevi. Ma a questi si andavano ad aggiungere anche animali fantastici, ispirati dalle credenze religiose e dalle leggende tribali, come il grifone, dalla testa d'aquila e il corpo di leone. Talvolta un leopardo poteva non sembrare abbastanza potente per i loro propositi, perciò gli antichi artisti associavano le caratteristiche fisiche di diverse creature per creare icone più potenti. Tra gli ibridi zoomorfi trovati nelle tombe delle sacerdotesse vi erano, ad esempio, il leopardo delle nevi alato, raffigurato nel torque della sacerdotessa di Ukhok, e il tatuaggio del cervo con teste di grifone sulla punta delle corna, un vivido disegno che le adornava il braccio sinistro. L'evoluzione delle pratiche religiose è evidente in una delle mie incisioni preferite. Diverse figure umane che indossano dei costumi, probabilmente di pelli di pecore intere, raccolte sulla schiena e intorno alla testa. Queste figure agitano sonagli a spirale e sono concentrate in raccoglimento mentre eseguono una danza rituale. Questa potrebbe essere la prima rappresentazione di sciamani dell'Asia centrale, le guide spirituali che si originarono presso le tribù delle foreste in Siberia. Quando la loro influenza si diffuse verso sud, coesistettero con le sacerdotesse e successivamente andarono a sostituirle. Nessuno sa con sicurezza quando avvenne questa transizione né perché, ma le incisioni suggeriscono che lo sciamanesimo fosse diventato un importante strumento nella vita religiosa dei nomadi già dall'età del ferro iniziale, nel primo millennio avanti Cristo. Gli etnografi russi, che furono tra i primi a studiare i popoli siberiani, sostengono che inizialmente gli sciamani furono donne, ma quando lo sciamanesimo prese il posto del culto delle sacerdotesse e guadagnò maggiore influenza negli affari della tribù, gli uomini iniziarono a dominare in questa professione, in Siberia e nell'Asia centrale. All'alba del XX secolo, i bolscevichi e successivamente i sovietici fraintesero lo sciamanesimo e lo soppressero con la stessa brutalità riservata alle altre religioni, incluso il buddismo, l'ebraismo, il cristianesimo ortodosso e l'islam. Solo pochi sciamani si salvarono, la maggior parte venne uccisa, altri furono definiti pazzi e rinchiusi o sedati per zittire le voci nelle loro teste. Quelli che continuarono a esercitare eseguirono i loro rituali di notte con guardie appostate per avvertire i fedeli dell'arrivo delle forze governative. Nell'ultimo periodo queste antiche pratiche sono ritornate in auge, come ho appreso di prima mano in un viaggio nella Mongolia occidentale nel 1996, quando andai a visitare alcuni kazaki nei loro pascoli estivi. Quando parlai del mio interesse per lo sciamanismo, un gentile signore anziano mi narrò di aver incontrato l'estate precedente una sciamana ancora in attività che viveva vicino all'accampamento mongolo di Tuvan.